A Bordo Campo di Dario Ricci. Ci sono tanti elementi in questa storia che andiamo a raccontare oggi a Bordo Campo. C'è una maglia tricolore, ci sono le due ruote del ciclismo, le provette del laboratorio di analisi antidoping, la rivalità fra due ciclisti, uno il più famoso al mondo, l'altro un onesto gregario che si è riscoperto e ha saputo reinventarsi campione d'Italia alla bella età di 37 anni. E proprio da quest'ultimo partiamo. Buongiorno Filippo Simeoni. Buongiorno a voi. Filippo Simeoni, campione d'Italia di ciclismo su strada, 37 anni, il trionfo ottenuto nell'ultimo campionato italiano a Bergamo, Giro d'Italia al via, tutti ci aspetteremmo di vedere la maglia tricolore in prima linea e invece non sarà così, vero Filippo? Invece purtroppo il campione italiano sarà lasciato a casa. Con grande rammarico che gli sportivi italiani non potranno vedere la maglia tricolore sulle strade d'Italia. Perché questo? Maglia tricolore sulle spalle, squadra la Ceramica Flaminia Bossini Docce, inserita comunque nel novero delle pretendenti alla partecipazione al Giro, e invece no, arriva l'esclusione. Ci spieghi un po' perché? Ma io penso che i criteri di selezione che vengono adottati dagli organizzatori del Giro d'Italia sono poco chiari. I regolamenti non sono certi e quelli che ci sono non vengono rispettati. La RCS Sport richiedeva dei requisiti di storicità, eticità e sportività alle squadre per essere invitate. La mia squadra, la Ceramica Flaminia Bossini Docce, aveva tutti questi requisiti, ma è chiara che ed evidente che la scelta degli organizzatori si è basata semplicemente su aspetti commerciali e non sportivi, tant'è vero che sono state invitate squadre appena nate o squadre che sportivamente hanno avuto un rendimento al di sotto della mia squadra, la Ceramica Flaminia. Questo mi rattrista, perché sinceramente in un momento particolare come questo, che sta vivendo il ciclismo, che sta vivendo l'economia generale, dove gli sponsor fanno sempre più fatica a entrare nel mondo dello sport e nel ciclismo in particolare, avere aziende italiane importanti come Ceramica Flaminia e Bossini Docce che investono nel ciclismo, credo che dovevano essere tutelate. Invece questo non è avvenuto e io mi trovo a 37 anni con la conquista di un titolo italiano che sognavo fin da quando ero bambino, però non ho la possibilità di poter partecipare all'evento più importante del nostro paese. Dicevamo, lei stesso diceva, criteri di selezione poco chiari, ma di fatto sappiamo che l'ambiente del ciclismo è un ambiente particolarmente difficile, le recenti cronache, il caso doping Rebellin lo dimostrano, e sappiamo anche, dobbiamo dire ai nostri ascoltatori, che Filippo Simeoni non è certo un santarellino, nel senso che è stato il primo ciclista italiano che nel 2001 ha ammesso l'uso di sostanze dopanti, no Filippo? Un atto a posteriori sicuramente di grande coraggio, per cui ha pagato duramente. Sì, sicuramente la mia storia è chiara, insomma io nell'ambito di un processo nei confronti di un medico preparatore, Michele Ferrari, mi sono assunto delle responsabilità importanti, ho collaborato nel processo accusandomi personalmente e accusando il medico che prescriveva e consigliava il doping, ho pagato con la giustizia sportiva e sono rientrato alle corse, però da quel momento mi sono creato tanti nemici, tra cui Lance Armstrong che mi ha punito diverse volte, l'ultima volta insomma nel 2004 in Mondovisione durante il Tour de France. Questo qua è un episodio che è rimasto un po' nella storia recente del ciclismo. Perché? Perché Filippo Simeoni accusa Michele Ferrari che, oltre a essere l'allievo del professor Conconi, famigerato e famoso fin dai tempi dei grandi successi di Francesco Moser, è anche il medico di fiducia di Lance Armstrong, il grande campione americano che, vedi il caso, ritornerà alle grandi competizioni proprio quest'anno dopo aver vinto 7 Tour de France, dopo essere rimasto a bordo strada, diciamo così, per 2 anni e mezzo, non ci sta a quell'accusa. E quando Filippo Simeoni, da onesto gregario, va in fuga in una tappa del Tour de France del 2004, lui, maglia gialla, lanciato verso il sesto successo, e poi saranno 7 consecutivi, che fa? Lo va a riprendere a metà della tappa. Io che ero davanti al televisore, come migliaia di altri e milioni di altri appassionati, ho detto, ma che sta succedendo? Lei se l'è mai spiegato quel gesto? Ma io purtroppo quello è un episodio negativo che ha condizionato pesantemente la mia carriera e il proseguo soprattutto della mia carriera. Da quel momento in poi ho avuto grosse difficoltà nel mio ambiente, mi è stato impedito di partecipare sempre alle grandi corse. Quest'anno personalmente ci tenevo moltissimo perché ero riuscito praticamente a fine carriera a conquistare il titolo italiano e pensavo che con il titolo italiano sulle spalle speravo sinceramente di poter essere al via alla corsa più importante del nostro paese. Evidentemente mi sono sbagliato, confidavo molto nello spirito nazionalista degli organizzatori, confidavo insomma in tutti quegli sportivi che tifavano, che credevano in me per il simbolo che rappresentavo, confidavo nella Federazione Ciclistica Italiana che tutelasse la maglia tricolore e il ciclismo italiano. Invece mi sono sbagliato enormemente e adesso mi trovo qui a fare un gesto forte, una provocazione importante per far capire le ingiustizie che ci sono nello sport, nel ciclismo in particolare. Di fatto quindi il campione d'Italia riconsegna la maglia tricolore perché ha detto: se di fatto non posso mostrarla ai miei tifosi nel giro del centenario, nell'occasione più importante, tenetevela allora. Sì, mi sono recato in federazione allo Stadio Olimpico dove ho riconsegnato la maglia tricolore perché io non riesco a capire perché viene svolto un campionato italiano e viene data la possibilità di indossare la maglia tricolore per un anno intero a tutte le corse più importanti in Italia e al mondo, però al Giro d'Italia non viene invitato il campione italiano. Mi è stato risposto che non meritavo una spiegazione alla mia esclusione, ma io rispondo che non è Filippo Simeoni che vuole una risposta, perché io le motivazioni me le posso anche immaginare, però credo che tutti gli sportivi italiani che seguono il ciclismo e anche chi non lo segue, che segue il Giro d'Italia e che mi vede sulle strade, mi tifa ogni giorno, credo aveva il piacere di vedermi sulle strade del Giro d'Italia e credo che a queste persone bisogna dare una risposta credibile sulla esclusione del campione italiano e della sua squadra. Proviamo a fare delle congetture, non sarà mica che magari qualcuno dell'organizzazione non ha voluto mettere in difficoltà quel texano che torna come grande attrazione mediatica e poi chissà se lo sarà anche sulle strade, staremo a vedere, del giro del centenario. Insomma, non è che qualcuno magari escludendo lei abbia voluto magari con un eccesso di zelo fare un favore a Lance Armstrong. Ma io dico questo. Chi segue il ciclismo, gli appassionati di questo sport avrà visto che c'è certa stampa ha osannato il ritorno di Armstrong in maniera esasperata. Viene considerato un messia. Io dico che Lance Armstrong è una persona molto importante, molto potente, che è capace di ottenere deroghe dall'Unione Ciclista Internazionale, di cambiare i regolamenti in corso e credo che se lui avesse espresso il desiderio di vedermi al Giro d'Italia insieme a lui per appacificare i toni del passato, credo che gli organizzatori gli avrebbero dato sicuramente retta. Io credo che questo non sia avvenuto e forse la presenza di Lance Armstrong al Giro d'Italia ha condizionato in qualche modo l'assenza del campione italiano in carica. L'altro dato che mi colpisce di questa nostra chiacchierata è anche l'omertà che emerge dal gruppo. Chi denuncia paga sulla propria pelle un conto salatissimo e i primi a presentargli questo conto sono proprio i colleghi. Sì, purtroppo le mie vicende sono ormai note. Io da quando mi sono esposto in maniera di doping purtroppo ho ricevuto tante ingiustizie da colleghi, da ambienti del mio settore, ne ho pagato le conseguenze, però speravo e credevo che tutto fosse rimasto alle spalle, però questa esclusione sinceramente non riesco a digerirla, non l'accetto perché credo che sia un'umiliazione grossa per me indossare la maglia tricolore e dare spiegazioni a tutti gli italiani che mi domandano: ma com'è possibile che in Italia il campione italiano non possa partecipare al Giro d'Italia? Solo in Italia può succedere una cosa del genere. Ed infatti solo in Italia succede così, perché in Francia gli organizzatori del Tour de France e gli organizzatori della Vuelta di Spagna non fanno questo. agevolano innanzitutto i corridori della propria nazione e gli sponsor della propria nazione. Quindi questo è un dato di fatto. Poi sono politiche che ognuno è libero di intraprendere, però io credo di avere il diritto di criticarle pesantemente. Le chiedo ancora, Riccardo Riccò, poi Piepoli, il trullo volante, Sella, il protagonista dell'ultimo Giro d'Italia, fino a provette contrarie, e poi ultimo della lista, speriamo almeno, Davide Rebellin, nell'occasione più prestigiosa e simbolicamente più importante, cioè l'Olimpiade di Pechino 2008. Che effetto le hanno fatto queste positività al doping? Io penso una cosa, l'ultima possibilità di Davide Rebellin sinceramente mi ha ferito molto, nel senso che io conosco Davide Rebellin da anni, lo considero un talento fin da quando era piccolo, pensate che abbiamo la stessa età, e io dico che se una persona seria, professionale e meticolosa come Davide Rebellin cade nella rete del doping, vuol dire che c'è qualcosa che non va in tutto il sistema, e quindi credo che siamo arrivati a un punto che bisogna fare chiarezza su tutto il sistema del tutto il mondo dello sport in generale, del ciclismo in particolare, che sta vivendo veramente un momento drammatico. Credo che quindi certi controlli andrebbero fatti più accurati, anche riprendendo le analisi che sono state accantonate l'ultimo Giro d'Italia, per esempio, cosa che non è stata fatta. Filippo Simeoni, 37 anni, Ceramica Flaminia, Bossini Docce, questa è la sua squadra, campione d'Italia. Che Giro d'Italia sarà il suo? Il mio Giro d'Italia sarà... dovrò riposarmi per a tutti i costi, perché durante il Giro d'Italia non correrò, riprenderò il 6 giugno dopo il Giro d'Italia, il Giro finisce il 30 maggio, quindi in questo periodo non ho corse e cercherò di vedere il meno possibile il Giro d'Italia, perché per me sarebbe un'ulteriore umiliazione vedere osannare dalla stampa italiana una persona che secondo me non merita tutte queste attenzioni. Grazie a Filippo Simeoni per essere stato ospite di A Bordo Campo. A Bordo Campo. Ultimi spruzzi di neve di una stagione invernale particolarmente lunga quest'anno, e allora andiamo proprio in montagna con A Bordo Campo per raccontarvi un'esperienza davvero particolare. Grandi campioni dello sci alpino e di fondo come l'americano Bodhi Miller, Peter Phil, argento in Super G ai mondiali in Val d'Isère, e Pietro Piller-Kotter, campione olimpico e vincitore dell'ultima Coppa del Mondo grandi distanze di sci di fondo, per un giorno si sono messi nei panni di guide per gli appassionati sciatori del gruppo verbanese Sciatori Ciechi, sulle piste di Macugnaga ai piedi del Monte Rosa. Ne parliamo oggi con diversi ospiti, a partire proprio da Pietro Piller-Kotter. Buongiorno Pietro, allora com'è andata questa esperienza alla scoperta dello sci paralimpico? È stata una cosa incredibile stare con loro, che sono sicuramente delle persone eccezionali e ricche di umanità. All'inizio ho chiesto addirittura loro che mi aiutassero, perché ero timoroso, il primo io, che nel non voler commettere degli errori. Poi mi hanno messo talmente a mio agio che è diventato una cosa come se l'avessi fatto da sempre. Ognuno di loro ha delle caratteristiche diverse, chi preferisce farsi guidare con un metronomo, che praticamente è un segnale acustico, e ovviamente la mia voce, oppure altri solo senza questo segnale, principalmente con il mio contatto. Chi preferisce fare il passo di pattinaggio, chi quello in alternato, veramente sono stati eccezionali ed è stata un'esperienza incredibile, tanto più che alla fine con una guida ho voluto provare io stesso, con una benda sugli occhi, a fare 400-500 metri per capire ancora di più quella che è il loro quotidiano nella vita di tutti i giorni, e soprattutto sugli sci, e apprezzare ancora una volta di più le loro fatiche. E quindi devo fare veramente loro i miei più grandi complimenti, perché sono eccezionali. Ecco, dicevi che hai provato in prima persona con gli occhi bendati questa sensazione, che effetto ti ha fatto? Come riesci a sentire la neve e a dialogare con la neve? Ma molto mi ha aiutato il fatto che prima di questo avessi fatto io la guida a loro, e quindi di aver capito che loro si fidano ovviamente di me, che ero la loro guida. Io, trovandomi in questa situazione, ho capito che dovevo seguire il metronomo, e ogni spostamento che la mia guida faceva dovevo farlo anch'io. Quindi, come loro si erano messi nelle mie mani, io mi sono messo nelle mani della guida, e inevitabilmente si instaura immediatamente un rapporto di fiducia che è indissolubile. Credo che questo sia il dato importante da sottolineare, no? In questa esperienza dello sci di fondo paralimpico, proprio questa fiducia che fa sì che anche la gara individuale diventi di fatto una gara di squadra. Assolutamente, penso che tra di loro ci sia questa unione non indifferente. Molti lo praticano, i più lo praticano proprio a livello solo ed esclusivamente amatoriale, senza nessuna ambizione di gara, ed è per questo che io ho fatto loro un complimento in più, perché chi è spinto come alcuni di loro dall'agonismo, infatti ce n'è stato uno che addirittura ha fatto la Vasa Lopet e l'Engadina e la Marcia Longa, quindi è veramente eccezionale. Io l'ho accompagnato e dopo un po' mi fa ma guarda che puoi andare anche un po' di più, perché io avevo anche il timore di andare troppo veloce, me ne sono anche sentite. Gran parte di loro invece lo fa proprio esclusivamente per la passione di stare con gli altri e di andare a sciare. E poi una guida mi ha detto che loro nascono, questa associazione nasce proprio con questo scopo ludico di non partecipare a nessuna gara e di farlo solo esclusivamente come attività ricreativa e per stare insieme. Sappiamo, abbiamo visto nella marcia d'avvicinamento a Pechino l'attenzione, le polemiche anche che ha suscitato il caso Pistorius, no? Ma pensi che nel momento in cui la tecnica e la tecnologia lo potessero permettere, sarebbe auspicabile anche a livello agonistico, al vostro livello, poter disputare delle gare open, aperte anche ad atleti paralimpici? Ma penso di risponderti di sì, anche perché è già successo in Coppa del Mondo da noi. C'è un atleta canadese che ha dei problemi alla vista, appunto, e lui proprio per questa sua handicap può partecipare ovviamente alle gare paralimpiche, e ciò non toglie che riesca a essere estremamente competitivo anche nelle nostre gare di Coppa del Mondo. Quindi la risposta ce l'abbiamo già in mano. Grazie allora a Pietro Piller-Kotler e buone vacanze. Ti aspettiamo, Pietro, in pista la prossima stagione. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Beh, parlavamo con Pietro Piller dell'emozione provata nel guidare in pista questi appassionati sciatori non vedenti. E ci ha raggiunto in linea un amico che invece da diversi anni collabora col gruppo verbanese Sciatori Ciechi, proprio come guida. Allora, Alberto Spagnoli, come se la sono cavata i nostri campioni? Sicuramente Bode Miller, un po' anche per la difficoltà della lingua, insomma, e Peter Phil hanno avuto sicuramente il compito più difficile, perché guidare invece i ragazzi in discesa, quando la discesa è bella ripida, e quindi avevano anche un minimo di dissociazione, un minimo di paura. E è stato simpatico un aneddoto che c'è stato proprio mentre Peter Phil provava a guidare uno dei nostri ragazzi non vedenti. Era in difficoltà e il ragazzo si è fermato e gli ha dato un 5 per rompere la tensione, assolutamente. Ma quali sono le peculiarità tecniche dello sci paralimpico e quali le differenze tra sci di fondo e alpino? Nel fondo, a seconda del grado del livello di preparazione dal punto di vista tecnico sportivo del non vedente, ci possono essere le persone più esperte che allora vengono proprio guidate dalla guida che precede il non vedente, e tipicamente abbiamo un metronomo messo nel marsupio che quindi dà un'indicazione con un rumore della posizione in cui siamo, in maniera tale che il non vedente possa più o meno avere un riferimento per la direzione. E poi siamo collegati attraverso un microfono, una cuffia, per dare le indicazioni riguardo il terreno, quindi se stiamo curvando a sinistra, a destra, se ci sono degli avvallamenti, se il binario è più o meno compatto, per cui può avere più o meno difficoltà. I ragazzi invece meno esperti vengono guidati rimanendo quasi a fianco praticamente, però capisce che comunque nella pista di fondo, nella disciplina del fondo non si raggiungono velocità elevate, per cui tutto sommato non è poi così difficile guidare. Diverso invece nella discesa, dove ci sono tecniche che sono state sperimentate nell'arco degli anni proprio per guidare le persone, allora anche qua quelle più esperte vengono sempre guidate attraverso la radio, quelle invece meno esperte vengono guidate magari da due guide che tengono un bastone in maniera tale che il cieco scii centralmente in questo bastone, oppure man mano che migliora dal punto di vista tecnico la guida tiene un bastone lungo dove il cieco sempre ha questo riferimento di appoggio per poi impostare correttamente la curva. Sono tecniche in base alle difficoltà e al grado di preparazione del non vedente. Un'esperienza, Alberto, che mi sembra fondamentale anche per rendere consapevole lo stesso non vedente delle potenzialità che può esprimere attraverso lo sport, vero? In questo caso darei una risposta che mi ha dato a suo tempo un ragazzo non vedente. Lui infatti mi ha detto che appunto è diventato cieco per una malattia che ha incontrato purtroppo attorno ai 30 anni e ha trascorso i primi anni dopo la malattia chiuso a casa fondamentalmente, non voleva uscire, insomma non si sentiva bene. Poi piano piano si è reso conto che aveva bisogno di una guida che poteva essere il cane per attraversare, per andare in città, piuttosto che delle persone che lo accompagnassero al lavoro, a prendere l'autobus, piuttosto che in palestra, piuttosto che, come nel nostro caso, di andare a sciare. E piano piano si è tornato a vivere, proprio perché si è reso conto che per poter vivere, per fortuna c'erano queste persone che lo guidassero. Ecco, noi nel fondo diciamo che facciamo questo, lui si fida di noi che facciamo da guida, da navigatore e piano piano, tanto più acquisisce questa fiducia, tanto più riesce a migliorare anche nell'attività sportiva. Grazie ad Alberto Spagnoli. Chiudiamo con Carlo Boroli, presidente della Brico, azienda leader nel settore dell'abbigliamento tecnico sportivo che ha promosso proprio Brico for Blind. Presidente Boroli, allora, possiamo contare su un bis il prossimo anno sulle piste di Macugnaga? La cosa che più ci ha colpito e più ci ha impressionato è la disinvoltura con cui questi ragazzi, e poi dico ragazzi, ma le età variano da Sara che aveva 13 anni fino ai 50 anni di Sergione, e soltanto per citarne due, e ripeto, la disinvoltura con cui da un punto di vista tecnico, con una corretta formazione, sono in grado di affrontare in questo caso le difficoltà di una pista in discesa oppure le difficoltà tecniche di una pista di sci di fondo, fa presumere che possano fare veramente qualunque cosa. Bisogna volerlo fortemente. Sappiamo come Brico che esistono anche delle esperienze sul ciclismo e quindi sicuramente in futuro, oltre che a ripetere un Brico for Blind sulla neve, tenteremo di costruire qualcosa anche sulla strada. Per A Bordo Campo di oggi è tutto. Un grazie a Carmelo Lauricella in regia. Potete riascoltarci sul nostro sito www.radio24.it e scriverci alla mail abordocampo@radio24.it. Un saluto da Dario Ricci.